Vangelo di San Giovanni, capitolo secondo. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato coi suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non han più vino». E Gesù le disse: «Che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». Or v'eran quivi 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro: «Empitele d'acqua». Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono, e quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua, che era diventata vino, or egli non sapeva d'onde venisse, ma ben lo sapevano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vin buono, e quando si è bevuto largamente, il men buono. Tu invece hai serbato il vin buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea, e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli, con sua madre, coi suoi fratelli e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti giorni. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme, e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i cambiamonete seduti. E fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio pecore e buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole e quelli che vendevano i colombi, e disse: «Portate via di qui queste cose. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo della tua casa mi consuma». I giudei allora presero a dirgli: «Quale segno ci mostri tu che fai queste cose?» Gesù rispose loro: «Disfate questo tempio, e in 3 giorni lo farò risorgere». Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la fabbrica di questo tempio, e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo, e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno della testimonianza da alcuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo.